C'era una volta la figlia di un re, la quale era tanto bella che in tutto il mondo non si dava l'eguale, e per cagione di questa sua grande bellezza la chiamavano la bella dai capelli d'oro, perché i suoi capelli erano più fini dell'oro e biondi e pettinati a meraviglia le scendevano giù fino ai piedi. Essa andava sempre coperta dai suoi capelli inanellati, con in capo una ghirlanda di fiori e con delle vesti tutte tempestate di diamanti e di perle, tanto che era impossibile vederla e non restarne invaghiti. In quelle vicinanze c'era un giovane re, il quale non aveva moglie ed era molto ricco e molto bello della persona. Quando egli venne a sapere tutte le belle cose che si dicevano della bella dai capelli d'oro, sebbene non l'avesse mai veduta, se ne innamorò così forte che non beveva né mangiava più, finché un bel giorno, fatto animo risoluto, pensò di mandare un ambasciatore per chiederla in sposa. Fece fabbricare apposta una magnifica carrozza per il suo ambasciatore. Gli diede più di 100 cavalli e 100 servitori e si raccomandò a più non posso perché gli conducesse la principessa. Appena l'ambasciatore ebbe preso congedo dal re e si fu messo in viaggio, alla corte non si parlava d'altro e il re, che non dubitava appunto che la principessa non volesse acconsentire ai suoi desideri, cominciò subito a farle allestire degli abiti bellissimi e dei mobili di gran valore. Intanto che erano dietro a questi preparativi, l'ambasciatore, che era arrivato alla corte della bella dai capelli d'oro, recitò il suo bravo discorso. Ma sia che la principessa in quel giorno non fosse di buon umore, sia che il complimento non le andasse a genio, fatto sta che rispose all'ambasciatore di ringraziare il re e di dirgli che non aveva voglia di maritarsi. L'ambasciatore se ne partì dalla principessa, dispiacentissimo di non poterla condurre seco, e riportò indietro tutti i regali che doveva presentarle da parte del re, perché la principessa era molto onesta e sapeva che alle ragazze non sta bene di accettare i regali dai giovinotti. Per cui non volle gradire né i diamanti né le altre cose, e solo per non scontentare il re accettò una carta di spilli d'Inghilterra. Quando l'ambasciatore fu tornato alla capitale, dove il suo re lo aspettava con tanta impazienza, tutti rimasero male dal vedere che non avesse condotto seco la principessa e il re si messe a piangere come un ragazzo, né c'era verso di consolarlo. Si trovava lì, alla corte, un giovinetto bello come il sole, il più grazioso di tutti gli abitanti del regno. A cagione appunto delle sue belle maniere e del suo spirito lo chiamavano Avvenente. Tutti gli volevano bene, meno gli invidiosi, che si rodevano dalla rabbia perché il re lo colmava di favori e lo metteva a parte d'ogni suo segreto. Accadde che Avvenente si trovò in un crocchio di persone che parlavano del ritorno dell'ambasciatore e dicevano che non era stato buono a nulla. Allora egli disse, senza badarci tanto né quanto, «Se il re avesse mandato me dalla bella dai capelli d'oro, son sicuro che ella sarebbe venuta meco». Senza metter tempo in mezzo, quei malanni risoffiarono subito queste parole al re e gli dissero: «Sapete, o sire, cosa ha detto Avvenente? Ha detto che se aveste mandato lui dalla bella dai capelli d'oro, egli si riprometteva di condurla seco. Vedete quant'è maligno e pretende di essere più bello di voi e vorrebbe dare ad intendere che la principessa si sarebbe tanto invaghita di lui da seguitarlo dappertutto. Ecco il re che va in bestia e si riscalda in modo da perdere il lume degli occhi. Ah, ah, egli dice, Dunque questo bel mugherino si piglia giuoco della mia disgrazia. Dunque si stima da più di me. Olà, mettetelo subito nella gran torre e che lì ci muoia di fame. Le guardie del re andarono da Avvenente, il quale non si ricordava nemmeno di quello che aveva detto. Lo trascinarono in prigione e gli fecero 1000 angherie. Questo povero giovine non aveva che un po' di paglia ad uso di letto e certo vi sarebbe morto senza una piccola fontana che scaturiva a piè della torre, dove egli pigliava qualche sorso d'acqua per rinfrescarsi un poco perché la fame gli aveva seccato la gola. Un giorno, non potendone più, diceva sospirando: «Di che mai si lamenta il re? Fra tutti i suoi sudditi non ce n'è uno che quanto me gli sia fedele. Non ho ricordanza di averlo offeso mai». Il re, per caso, passando vicino alla torre, sentì i lamenti di colui che aveva tanto amato e si fermò per stare in orecchio. Quantunque i cortigiani che erano con lui e che l'avevano a morte con Avvenente dicessero al re: «Che idea è la vostra, o sire, non sapete che è un malanno?» E il re rispose: «Lasciatemi qui, voglio sentire quello che dice». E avendo sentito i lamenti di lui, gli occhi s'empirono di pianto, aprì la porta della torre e lo chiamò. Avvenente, tutto desolato, andò a buttarsi ai ginocchi del re e gli baciò i piedi. «Che cosa v'ho fatto, sire?» egli disse, «per meritarmi sì duri trattamenti. Tu ti sei preso gioco di me e del mio ambasciatore», rispose il re. «Tu ti sei lasciato uscir di bocca che, se avessi mandato te dalla bella dai capelli d'oro, ti saresti stimato da tanto da menarla teco». «È vero, sire», disse Avvenente, «io le avrei raccontato così bene le vostre virtù e i vostri pregi che sono sicuro che ella non avrebbe saputo come resistere. E in tutto questo non mi par che ci sia cosa che possa offendervi». Il re riconobbe di fatto di aver torto. Dette un'occhiata a coloro che gli avevano messo in disgrazia il suo favorito e lo menò con sé, non senza pentirsi amaramente del gran dispiacere che gli aveva dato. Dopo averlo invitato a una lauta cena, lo chiamò nel suo gabinetto e gli disse: «Avvenente, io amo sempre la bella dai capelli d'oro. Il suo rifiuto non mi ha levato di speranza, ma non so che strada mi prendere per indurla a diventare mia sposa. Ho una gran voglia di mandare te per vedere se tu fossi buono di venirne a capo». Avvenente rispose che era dispostissimo ad obbedirlo in ogni cosa e che sarebbe partito subito, anche l'indomani. «Oh», disse il re, «ti voglio dare una splendida accompagnatura». «Non mi par punto necessaria», egli rispose. «Quanto a me, mi basta e me n'avanza d'un bel cavallo e di qualche lettera da poter presentare da parte vostra». Il re non poté stare dall'abbracciarlo per la gran contentezza di vederlo così pronto e sollecito a partire. Egli prese congedo dal re e dai suoi amici un lunedì mattina e si pose in viaggio per compiere la sua ambasciata da sé solo, senza tante vistosità e senza fracasso. Lungo la strada non faceva altro che studiare tutti i modi per impegnare la bella principessa dai capelli d'oro a divenire la sposa del re. Portava in tasca un piccolo calamaio e quando gli veniva qualche bel pensierino da incastrare nel suo discorso, scendeva da cavallo e si metteva sotto un albero per pigliarne ricordo prima che gli passasse dalla memoria. Una mattina, che era partito sul far del giorno, passando da una gran prateria, gli venne in mente un'idea gentile e graziosa e, sceso subito di sella, andò a mettersi sotto una sfilata di salici e di pioppi piantati lungo un piccolo ruscello che scorreva all'orlo del prato. Quando ebbe finito di scrivere, si voltò a guardare da tutte le parti, tanto era contento di trovarsi in un luogo così delizioso. Quando ecco che vide sull'erba un carpione color dell'oro che boccheggiava e non ne poteva più perché per la gola di chiappare dei moscerini aveva fatto un salto così lungo e così fuor dell'acqua che era andato a ricascare sull'erba dove stava quasi per morire. Avvenente ne ebbe compassione e sebbene fosse giorno di magro e potesse fargli comodo per il suo desinare, lo prese e lo rimesse per benino nella corrente del fiume. Appena il nostro carpione sentì il fresco dell'acqua, cominciò a scodinzolare dall'allegrezza e andò subito a fondo, ma poi, ritornato a fior d'acqua, disse, avvicinandosi tutto vispo alla riva: «Avvenente, io vi ringrazio del servizio che mi avete reso. Senza di voi sarei morto e voi mi avete salvato. Io non sono un ingrato e saprò ricambiarvi». Dopo questo complimento sparì sott'acqua e Avvenente rimase molto maravigliato dello spirito e della buona creanza del carpione. Un altro giorno, mentre seguitava il suo viaggio, si imbatté in un corvo, ridotto a mal partito. Questo povero uccello era inseguito da un'aquila smisurata, gran divoratrice di corvi, e stava lì lì per essere agguantato e l'aquila l'avrebbe inghiottito come un chicco di canapa se Avvenente non si fosse mosso a compassione della povera bestia. «Ecco», gli disse, «che al solito i più forti opprimono i più deboli. Che ragione ha l'aquila di mangiare il corvo?» E preso l'arco che portava sempre seco e una freccia, puntò la mira contro l'aquila e crack! Le scagliò la freccia nel corpo e la passò da parte a parte. L'aquila cadde giù morta e il corvo, tutto allegro, andandosi a posare in cima a un ramo, «Avvenente», gli disse, «voi siete stato molto generoso d'essere venuto in aiuto a me, che sono un povero uccello. Ma non avete trovato un ingrato. All'occorrenza saprò ricambiarvi». Avvenente ammirò il buon cuore del corvo e continuò la sua strada. Una mattina, che albeggiava appena e non vedeva nemmeno dove mettesse i piedi, nel traversare un gran bosco sentì un gufo che strillava come un disperato. «Ohè!» egli disse. «Ecco un gufo al quale deve essere capitato qualche brutto malanno. Guarda di qui, guarda di là». Finalmente gli venne fatto di vedere alcune reti che erano state tese la notte per acchiappare gli uccelli. «Che miseria!» egli disse. «Si vede proprio che gli uomini sono fatti apposta per tormentarsi gli uni con gli altri e per non lasciar ben avere tanti poveri animali che non hanno fatto loro nessun male e nessun dispetto». Cavò fuori il suo coltello e tagliò le funicelle delle reti. Il gufo prese il volo, ma ricalando subito a tiro di schioppo, «Avvenente», egli disse, «non ho bisogno di perdermi in parole per dirvi la gratitudine che sento per voi. Il fatto parla da sé. I cacciatori stavano lì per arrivare. Senza il vostro soccorso mi avrebbero preso e ammazzato. Ma io ho un cuore riconoscente e saprò ricambiarvi». Ecco le tre avventure più strepitose che accadessero al buon Avvenente durante il viaggio. Egli aveva tanta passione d'arrivar presto che appena giunto andò subito al palazzo della bella dai capelli d'oro. Il palazzo era pieno di meraviglie, diamanti ammontati come sassi, abiti magnifici, argenterie, confetti, dolci e ogni grazia di Dio, di modo che Avvenente pensava dentro di sé che se la principessa si fosse decisa a lasciare tutte quelle magnificenze per venire a stare col suo re padrone, bisognava proprio dire che gli era toccata una gran fortuna. Si messe un vestito di broccato e delle penne bianche e carnicine. Si pettinò, si incipriò, si lavò il viso, si infilò intorno al collo una ricca sciarpa tutta ricamata con un piccolo paniere e con dentro un bel canino che esso aveva comprato passando da Bologna. Avvenente era così bello nella persona e così grazioso, e ogni cosa che faceva lo faceva con tanto garbo che quando si presentò alla porta del palazzo tutte le guardie gli strisciarono una gran riverenza e corsero ad annunziare alla bella dai capelli d'oro che Avvenente, l'ambasciatore del re suo vicino, domandava la grazia di poterla vedere. Subito che intese il nome d'Avvenente, la principessa disse: «Questo nome m'è di buon augurio. Scommetto che deve essere un giovane grazioso e da piacere». «Oh, davvero, signora», dissero tutte le dame d'onore, «noi l'abbiamo veduto dall'ultimo piano, dove s'era a mettere in ordine la vostra biancheria, e tutto il tempo che s'è trattenuto sotto le nostre finestre non siamo state più buone a far nulla». «Vi fa un bell'onore», replicò la bella dai capelli d'oro, «di passare il vostro tempo a guardare i giovanotti. Animo, via! Mi si porti subito il mio vestito di gala di raso blu a ricami, mi si sparpaglino con grazia i capelli biondi, mi si faccia una ghirlanda di fiori freschi, si tirino fuori le mie scarpine col tacco rilevato e il mio ventaglio. Si spazzi la mia camera e si spolveri il mio trono, perché io voglio si dica dappertutto che sono davvero la bella dai capelli d'oro». Ecco tutte le donne in gran moto per abbigliarla come una regina, e tanto si danno da fare che s'urtano fra di loro e non concludono nulla di buono. Finalmente la principessa passò nella sala dei grandi specchi per rimirarsi e vedere se al suo abbigliamento mancasse qualche cosa. Poi salì sul trono, tutto d'oro, d'avorio e d'ebano, che mandava un profumo delizioso, e ordinò alle donne di prendere degli strumenti e di mettersi a cantare, ma con una certa discrezione, per non cavar di cervello la gente. Quando Avvenente fu condotto nella sala d'udienza, restò così fuori di sé dalla maraviglia che dopo ha raccontato molte volte che non poteva quasi aprir bocca per parlare. Non di meno si fece coraggio, disse il suo discorso come non si poteva dir meglio e pregò la principessa di non dargli il dispiacere di doversene tornare via senza di lei. «Garbato Avvenente», disse la principessa, «le ragioni che mi avete dette sono eccellenti e io sarei contenta di fare un favore a voi piuttosto che a qualunque altra persona. Ma bisogna che sappiate che un mese fa andai a passeggiare con le mie dame di compagnia lungo il fiume e siccome mi fu servita la colazione, così nel cavarmi il guanto mi uscì l'anello dal dito e disgraziatamente cadde nell'acqua. Quest'anello mi è più caro del regno. Lascio immaginare a voi il dispiacere che provai. E ora ho fatto giuro di non dare ascolto a nessuna trattativa di matrimonio se l'ambasciatore che verrà a portarmi lo sposo non mi riporti prima il mio anello. Tocca a voi a decidere su quello che volete fare. Perché se duraste a parlarmene 15 giorni e 15 notti in fila, non arrivereste mai a farmi cambiare di sentimento». Avvenente rimase mezzo intontito a questa risposta, le fece una gran riverenza e la pregò di voler gradire il canino, il paniere e la sciarpa. Ma essa rispose che non accettava nessun regalo e che pensasse alle cose che gli aveva dette. Quando fu tornato a casa, se ne andò a letto senza prendere nemmeno un boccone da cena, e il canino, che si chiamava Caprioletto, non volle cenare neanche lui e andò a cucciarsi accanto al padrone. Tutta la notte, quanto fu lunga, Avvenente non fece altro che sospirare. «Dove possi io ripescare un anello che un mese fa è cascato nel fiume?» esso diceva. «Sarebbe una pazzia soltanto a provarsi». Si vede bene che la principessa lo ha detto apposta per mettermi nell'impossibilità di poterla ubbidire. E tornava a sospirare e a dare in tutte le smanie. Caprioletto, che lo sentiva, gli disse: «Caro padrone, fatemi un piacere. Non disperate ancora della vostra buona fortuna. Voi siete un giovane troppo carino per non dover essere fortunato. Appena farà giorno, andiamo subito in riva al fiume». Avvenente gli dette con la mano due buffetti e non rispose sillaba, finché, stanco e rifinito dalla passione, si addormentò. Caprioletto, quando vide i primi chiarori dell'alba, cominciò tanto a sgambettare che lo svegliò e gli disse: «Animo, padrone, vestitevi e usciamo». Avvenente non desiderava di meglio. Si alza, si veste, scende nel giardino e dal giardino si incammina un passo dietro l'altro verso il fiume, dove si mette a passeggiare col suo cappello sugli occhi e con le braccia incrociate, pensando al brutto momento di dover ripartire. Quand'ecco che a un tratto sente una voce che lo chiama: «Avvenente! Avvenente!» Si volta a guardare da tutte le parti e non vede anima viva. Crede di aver sognato. Si rimette a passeggiare e da capo la solita voce a chiamarlo: «Avvenente! Avvenente!» «Chi è che mi chiama?» disse egli. Caprioletto, che era molto piccino e così poteva guardare nell'acqua a piccolissima distanza, gli rispose: «Datemi del bugiardo, se non è un carpione color dell'oro, quello laggiù in fondo». Detto fatto, un grosso carpio venne su a fior d'acqua e gli disse: «Voi mi avete salvato la vita nei prati degli Alzieri, dove io senza di voi sarei rimasto morto, e vi promisi un ricambio. Pigliate? Caro avvenente, ecco qui l'anello della bella dai capelli d'oro». Egli si chinò e tirò fuori l'anello dalla gola del carpio e lo ringraziò a mille doppi. E invece di tornare a casa, andò difilato al palazzo in compagnia di Caprioletto, che era contento come una Pasqua per aver consigliato il suo padrone a venire sulla sponda del fiume. Fu annunziato alla principessa che Avvenente desiderava di vederla. «Ahimè, povero giovane», disse ella, «ei vien da me per congedarsi. Avrà capito che ciò che io voglio da lui è impossibile e partirà per andare a raccontarlo al suo padrone». Avvenente, appena introdotto, le presentò l'anello, dicendo: «Ecco, o principessa, il vostro comando è stato obbedito. Sareste ora tanto compiacente di prendere per vostro sposo il mio augusto padrone?» Quando ella vide il suo anello, sano e salvo come se non fosse stato toccato, rimase meravigliata, ma tanto meravigliata che credeva di sognare. «Davvero», ella disse, «grazioso avvenente, si vede proprio che voi avete una fata dalla vostra, altrimenti questi miracoli non si fanno». «Signora», egli replicò, «io non so di fate, ma so che ho un gran desiderio di contentare ogni vostra voglia. Poiché avete questa volontà», ella continuò, «rendetemi un altro servizio, senza di che non c'è caso che io possa risolvermi a prendere marito. C'è un principe, lontano di qui, detto Galifrone, il quale si è messo in testa di volermi sposare. Egli mi ha fatto conoscere la sua intenzione con minacce paurose, dicendo che se io non lo voglio, metterà lo scompiglio e la desolazione nei miei stati. Ma ditemi un po' voi se potrei dargli retta. Figuratevi che è un gigante più grande di una gran torre, ed è capace di mangiare un uomo come una scimmia mangerebbe una castagna. Quando va in giro per la campagna, si mette in tasca dei piccoli cannoni, dei quali poi si serve come se fossero pistole. e quando parla forte fa diventare sorde tutte le persone che gli stanno vicine. Gli mandai a dire che non avevo voglia di maritarmi e che mi scusasse, ma non per questo ha smesso di perseguitarmi, ammazza i miei sudditi e prima d'ogni cosa bisogna che voi vi battiate con lui e che mi portiate la sua testa. Avvenente rimase sbalordito da questo discorso, stette un po' sopra pensiero, poi disse: «Ebbene, o signora, io mi batterò con Galifrone, credo che ne toccherò io, a ogni modo morirò da valoroso». La principessa restò meravigliatissima e gli disse un monte di cose per vedere di stornarlo da questa impresa, ma non valse a nulla. Egli se ne venne via per mettersi subito in cerca delle armi e di tutto l'occorrente. Quando ebbe ciò che voleva, ripose Caprioletto nel solito panierino, montò sul bel cavallo e andò nel paese di Galifrone. A quanti incontrava per via, domandava a tutti notizie di lui e tutti gli dicevano che era un vero demonio e che faceva spavento soltanto a doverlo avvicinare. Caprioletto, per fargli coraggio, gli diceva: «Caro padrone, in quel mentre che vi batterete, io anderò a mordergli le gambe. Lui si chinerà per levarmi di tra i piedi e intanto voi l'ammazzerete». Avvenente ammirava lo spirito del suo canino, ma sapeva bene che il suo aiuto non sarebbe stato in ragione del bisogno. Finalmente arrivò in vicinanza del castello di Galifrone. Tutte le strade erano seminate d'ossa e di carcasse di uomini che esso aveva divorati o fatti in pezzi. Ne dové aspettarlo molto tempo perché lo vide comparire di dietro al bosco. La sua testa sorpassava gli alberi più alti e con una voce spaventosa cantava: «Chi mi porta dei teneri bambini da farli scricchiolare sotto il dente? Ne ho bisogno di tanti e poi di tanti, che in tutto il mondo non ce n'è bastanti». E subito Avvenente a botta e risposta si mise a cantare: «Fatti avanti, c'è Avvenente, che saprà strapparti i denti. Non è un colosso di figura, ma di te non ha paura». Le rime non tornano precise, ma bisogna riflettere che la strofa la improvvisò in fretta e in furia, ed è un miracolo se non la fece anche più brutta per la paura che gli era entrata in corpo. Quando Galifrone sentì questa risposta, si voltò di qua e di là e vide Avvenente con la spada nel pugno della mano, che gli disse per giunta 3 o 4 parolacce per farlo andare in bestia più che mai. «Non ci mancava altro, non ci mancava altro». Egli prese una furia così spaventosa che, afferrata una mazza tutta di ferro, avrebbe ucciso con un colpo solo il delicato Avvenente, senza il caso di un corvo che venne a posarglisi sulla testa e gli dette negli occhi una beccata così aggiustata che glieli cavò di netto. Il sangue gli grondava giù per il viso e, infuriato da far paura, picchiava mazzate a diritto e a rovescio. Intanto Avvenente, scansandosi a tempo, gli tirava dei colpi di spada, ficcandogliela in corpo fino all'impugnatura, e tanto era il sangue che il gigante perdeva dalle sue molte ferite che finalmente stramazzò per terra. Avvenente gli tagliò subito la testa, tutto allegro di avere avuto questa bella fortuna, e il corvo, che s'era posato sul ramo d'un albero, gli disse: «Io non ho dimenticato il servizio che mi rendeste uccidendo l'aquila che mi dava addosso. Vi promisi di contraccambiarvi e credo di aver pagato il mio debito». «Son io che vi debbo tutto, signor corvo», rispose Avvenente, «e mi dichiaro vostro buon servitore». Poi montò subito a cavallo col carico della spaventosa testa di Galifrone. Quando arrivò in città, tutta la gente gli andava dietro gridando: «Ecco il bravo avvenente che ritorna dall'aver morto il gigante Galifrone!» E la principessa, che sentiva questo baccano e tremava dalla paura che venissero a dargli la nuova della morte di avvenente, non aveva fiato di chiedere che cosa fosse avvenuto. Ma in quel punto ella vide entrare avvenente con la testa del gigante, che metteva ancora spavento quantunque non potesse più fare alcun male. «Signora», egli disse, «il vostro nemico è morto. Voglio sperare che ora non direte più di no al re mio augusto padrone». «Ah, senza dubbio», replicò la bella dai capelli d'oro, «che io gli dirò sempre di no, se voi, prima della mia partenza, non trovate il modo di portarmi l'acqua della caverna tenebrosa. C'è qui, poco distante, una grotta profonda che gira più di 100 chilometri. Ci stanno sull'ingresso 2 draghi che ne impediscono l'entrata. Buttano fiamme di fuoco dalla bocca e dagli occhi. Quando poi siamo dentro la grotta, si trova una gran buca nella quale bisogna scendere ed è piena di rospi, di biacchi, di ramarri e di altri serpenti. In fondo a questa buca c'è una piccola nicchia dalla quale scaturisce la fontana della bellezza e della salute. Io voglio a tutti i costi quell'acqua. Ogni cosa che si lava con quell'acqua diventa meravigliosa. Se siamo belle, si rimane sempre belle. Se brutte, si diventa belle. Se siamo giovani, si resta giovani. Se vecchie, si ringiovanisce. Vedete bene, caro avvenente, che io non posso lasciare il mio regno senza potar meco un poco di quell'acqua lì». «Signora», egli rispose, «voi siete tanto bella che quest'acqua per voi mi pare affatto inutile. Ma io sono solo un ambasciatore disgraziato di cui volete la morte. Io vado a cercarvi ciò che voi desiderate, con la certezza nel cuore di non tornare più indietro». La bella dai capelli d'oro non cambiò per questo di proposito, e il povero avvenente partì col suo canino caprioletto per andare alla grotta tenebrosa a cercarvi l'acqua della bellezza. Tutti quelli che lo incontravano lungo la strada dicevano: «Che peccato vedere un giovane tanto grazioso correre così spensieratamente in bocca alla morte. Egli se ne va alla grotta da sé solo, ma quand'anche fossero 100 non verrebbero a capo di nulla, perché la principessa si incaponisce a volere l'impossibile». Egli seguitava a camminare e non diceva parola, ma era triste, molto triste. Arrivato verso la cima della montagna, si sedette per ripigliar fiato e lasciò il cavallo a pascere e Caprioletto a correre dietro alle mosche. Egli sapeva che la grotta tenebrosa non era molto distante di là e guardava se per caso l'avesse potuta scoprire. Quand'ecco che vide un enorme scoglio, nero come l'inchiostro, di dove usciva un fumo densissimo, e di lì a poco uno dei draghi che buttava fuoco dagli occhi e dalla gola. Il drago aveva il corpo verde e giallo, dei grossi unghioni e una coda lunghissima che s'attorcigliava in più di 100 giri. Caprioletto vide anch'egli ogni cosa e non sapeva dove nascondersi. La povera bestia era mezza morta dalla paura. Avvenente, fatto ormai animo di morire, cavò fuori la sua spada e s'avviò con la sua boccetta che la bella dai capelli d'oro gli aveva dato per riempirla con l'acqua della bellezza. Egli disse al suo canino Caprioletto: «Per me è finita. Io non potrò mai arrivare a prendere di quest'acqua che è custodita dai draghi. Quando sarò morto, riempi la boccetta col mio sangue e portala alla principessa, perché ella possa vedere quanto mi costa il servirla. E dopo vai a trovare il re mio padrone e raccontagli la mia disgrazia». Mentre diceva così, sentì una voce che lo chiamava: «Avvenente? Avvenente!» e gli disse: «Chi mi chiama?» E vide un gufo nel buco d'un albero vecchio, che gli disse: «Voi mi avete liberato dalle reti dei cacciatori quando ero rimasto preso e mi salvaste la vita. Promisi di rendervi il contraccambio e il momento è giunto. Datemi la vostra boccetta, io conosco tutti gli andirivieni della grotta tenebrosa. Anderò io a prendervi l'acqua della bellezza». Figuratevi se questa cosa gli fece piacere, lo lascio pensare a voi. Avvenente gli dette subito la sua boccetta e il gufo entrò nella grotta, come sarebbe entrato in casa sua. E in meno d'un quarto d'ora tornò e riportò la boccetta piena e tappata. Ad Avvenente parve d'aver toccato il cielo con un dito, ringraziò il gufo dal profondo del cuore e, risalita la montagna, prese tutt'allegro la strada che menava alla città. Andò subito a palazzo e presentò la boccetta alla bella dai capelli d'oro, la quale non ebbe più nulla da ridire. Ella ringraziò Avvenente e diè l'ordine che fosse allestita ogni cosa per la partenza. Poi si messe in viaggio con lui e, strada facendo, finì col persuadersi che il giovinetto era molto grazioso e qualche volta gli diceva: «Se aveste voluto, vi avrei fatto re e non saremmo partiti mai dai miei stati». Ma egli rispose: «Rinunzierei a tutti i troni della terra piuttosto che dare un dispiacere così forte al mio re, sebbene voi siate più bella del sole». Finalmente giunsero alla capitale e il re, sapendo che la bella dai capelli d'oro stava per arrivare, andò ad incontrarla e le presentò i più bei regali del mondo. Furono fatte le nozze e con tanta gala e magnificenza che si durò a discorrerne per un pezzo. Ma la bella dai capelli d'oro, che in fondo al cuore era innamorata di Avvenente, non poteva stare senza vederlo e l'aveva sempre sulla bocca. Ella diceva al re: «Se non era Avvenente, io non sarei di certo venuta qui. Egli ha fatto per me delle cose da non potersi credere e voi dovete essergli grato». Gli invidiosi che sentivano questi discorsi della regina andavano dopo bisbigliando al re: «Voi non siete geloso, eppure avreste motivo di esserlo. La regina è così innamorata di Avvenente che non mangia né beve più. Essa non fa altro che parlar di lui e della grande riconoscenza che voi dovete avergli, come se chiunque altro aveste mandato nel posto suo non avesse saputo fare altrettanto». E il re disse: «Davvero che me ne sono accorto anch'io, che sia preso subito e imprigionato nella torre con ferri ai piedi e alle mani». Avvenente fu preso e, in ricompensa di aver così bene servito il re, fu chiuso nella torre con ferri ai piedi e alle mani. La sola persona che egli vedesse era il guardiano del carcere, il quale gli gettava da una buca un pezzo di pan nero e un po' d'acqua in una ciotola di terra. Ma il suo piccolo caprioletto non lo abbandonava mai e veniva a fargli coraggio e a portargli tutte le nuove che correvano per la città. Quando la bella dai capelli d'oro venne a risapere la disgrazia di Avvenente, andò a buttarsi ai piedi del re e con le lacrime agli occhi lo pregò a farlo levare di prigione. Ma più essa si raccomandava e più il re si intristiva, pensando fra sé e sé: «È segno che ne è innamorata», e così non intendeva né ragioni né preghiere. Il re finì col mettersi in testa di non essere abbastanza bello agli occhi della regina e gli venne l'idea di lavarsi il viso con l'acqua della bellezza per vedere se in questo modo gli fosse riuscito di farsi amare un poco di più. Quest'acqua stava sul caminetto della camera della regina, che la teneva lì per averla sempre sott'occhio. Ma una delle cameriere, volendo ammazzare un ragno con una spazzolata, fece cascare disgraziatamente la boccetta, la quale si ruppe e l'acqua se ne andò tutta per terra. La cameriera ripulì ogni cosa in fretta e furia, e non sapendo come rimediarla, si ricordò di aver visto nel gabinetto del re un'altra boccetta, somigliantissima e piena d'acqua chiara, tale e quale come l'acqua della bellezza. Non parendo suo fatto, la prese, senza star a dir nulla, e la posò sul caminetto della regina. L'acqua che era nel gabinetto del re serviva per far morire i principi e i gran signori, quando ne avevano fatta qualcuna delle grosse. Invece di tagliar loro la testa o impiccarli, si bagnava loro il viso con quest'acqua, e così si addormentavano e non si svegliavano più. Una sera, dunque, il re prese la boccetta e si strofinò bene bene il viso. Dopo si addormentò e morì. Il piccolo caprioletto, che fu uno dei primi a sapere del caso, andò subito a raccontarlo ad Avvenente, il quale gli disse di andare di corsa dalla bella dai capelli d'oro e di pregarla a volersi ricordare del povero prigioniero. Caprioletto sgattaiolò fra mezzo alle gambe della folla, perché alla corte c'era un gran via vai e una gran diceria per la morte del re, e disse alla regina: «Signora, non vi scordate del povero Avvenente?» Ella si rammentò subito di tutti i patimenti che aveva sofferti per lei e della sua gran fidatezza. Uscì senza farne parola con alcuno e andò diritto alla torre, dove sciolse da se stessa le catene dalle mani e dai piedi d'Avvenente, e mettendogli una corona in capo e un manto reale sulle spalle, disse: «Venite, mio caro Avvenente, io vi faccio re e vi prendo per mio sposo». Egli si gettò ai suoi piedi e la ringraziò, e tutti si chiamarono fortunati di averlo per sovrano. Le nozze furono fatte con grandissima magnificenza, e la bella dai capelli d'oro visse molti anni col suo bell'Avvenente, tutti e due felici e contenti da non poterselo figurare. Si vuole che Avvenente lasciasse ai suoi figli un libro di ricordi, un libro curioso che aveva tutte le pagine bianche meno l'ultima, sulla quale aveva scritto di proprio pugno le seguenti parole: «Se per caso qualche povero diavolo ricorre a te per essere aiutato, tu aiutalo, né badare com'è vestito, né se abbia viso di persona da poterti rendere un giorno o l'altro il piacere che gli fai. Sulle opere buone e generose non si mercanteggia mai, né bisogna farle con l'intenzione di ripigliarci sopra il frutto e l'usura. A ogni modo, tieni sempre a mente che un beneficio fatto non è mai perduto.